Friuli nel mondo. Nostalgia del focolare. 49esima trasmissione dedicata agli emigrati. Destino per i friulani, quello dell'emigrazione. Un destino antico come i monti in cui Dio pose a vivere questa popolazione tenace, laboriosa, forte, volitiva, conformandola, si direbbe, con la stessa materia che gli usò nel darle un così armonioso e insieme severo paesaggio. Ma i monti, i nostri bellissimi monti che chiudono in un affettuoso abbraccio l'orizzonte e il confine orientale della patria, sono sempre stati generosi di sudore e avari di frutti per la nostra gente. E gli uomini del Friuli si sono abituati da tempo, un tempo che sembra quasi immemorabile, a lasciare le loro case e a battere le vie del mondo. Naturale, dunque, che l'anima del popolo trovasse nel motivo dell'emigrazione l'ispirazione per alcuni dei suoi canti più melodiosi e accorati. Canti in cui l'anima palesa in tutta la sua pienezza i sentimenti che la abitano, il dolore del distacco, l'amore per chi resta, la nostalgia del focolare intorno al quale la famiglia attende il ritorno del partente. Ispirandosi al popolo friulano e al suo destino, Arturo Zardini, che sin da ragazzo conobbe le strade che dalla natia Pontebba portavano in Austria, compose il notissimo Chant dall'emigrante. Nelle parole che quella melodia lenta e triste secondano mirabilmente, ciascun emigrante riconosce se stesso. Dicono infatti le parole: dal mio cuore un dolore prorompe, tutto devo abbandonare, patria e mamma e ogni affetto, per il mondo mi tocca andare. Già vedo spuntare le lacrime di quell'angelo, e baciando le sue piccole mani, io le dico: mi tocca andare. Arturo Zardini, musicista e poeta, è certamente una delle espressioni più fedeli dello spirito della nostra gente, e le parole che egli rivestì delle sue toccanti note traducono come meglio non si potrebbe i sentimenti del popolo. Ma la stessa cosa potrebbe essere detta di Enrico Fruc, nato a Rigolato, in quella Carnia che dà forse il nervo maggiore di braccia all'emigrazione friulana. Anche Fruc, aderendo intimamente alla propria gente e alla propria terra, ha cantato l'addio dell'emigrante al Friuli nelle quartine di Anin, Varin Fortune, musicate da Franco Escher. Canto famoso anche questo, che così dice: andiamo, avremo fortuna, la primavera ulisce, al chiaro di luna ci attende il vecchio barcaiolo. Il barcaiolo rema, addio bel cielo friulano, approderemo insieme laggiù, lontano, lontano. Dardini, Fruc, due poeti sensibili e squisiti, in cui il Friuli si riconosce con orgoglio. Ma più spesso il popolo friulano trovò direttamente in se stesso le parole e il motivo musicale per esprimere la tristezza del commiato dalla terra natale e dai propri cari. E lo fece con parole semplici e piane, con una naturalezza e soavità d'accenti che fanno di quel componimento, noto con il nome di villotta, il documento e la testimonianza forse più caratteristici di tutto il patrimonio popolare friulano. Chi non ricorda al chanta il giallo, canta il gallo, spunta il giorno, addio bambina mia, devo partire. E io parto, domani me ne vado, dammi conforto nell'amore. In questo canto l'anima del popolo ha raggiunto tanta accorata grazia. Ugualmente al...